in primo piano. Buongiorno, oggi vorrei cominciare la rassegna stampa estera con un tocco un po' diverso, perché avete probabilmente sentito le notizie ieri sul DPF, sui dubbi del presidente Napolitano e altre cose, ma oggi mi attira l'attenzione un paio di inchiesta. La mattina ci si sveglia e si chiede: ma come stiamo? Ebbene, Repubblica in prima pagina ve lo dice. Un'inchiesta, un'indagine Demoscop dice che gli italiani sono stressati e felici. Che cosa vuol dire? Che la crisi già esiste da 10 mesi e ha dato dei comportamenti sociali diversi di quello che pensavamo. Allora, questa grande inchiesta su Repubblica, all'interno vedete che gli italiani riducono i consumi, guadagnano meno, ricorrono a prestiti, eppure non cedono al pessimismo. Riescono a vivere con questi due stati d'animo stridenti, felici e stressati allo stesso tempo, grazie allo spirito di adattamento che ha consentito di ridurre l'impatto psicologico della recessione. Per esempio si vede i problemi sindacali che ci sono, lo vedremo un po' più avanti, in altri paesi, sono stati un po' meno violenti, diciamo, in Italia. Perché? Perché, dice questa inchiesta, 4 persone su 10 passano più tempo a casa, quasi tutti sono più attenti alle spese, gli effetti sulla famiglia sono abbastanza grandi, perché si vede che il 18% nelle famiglie hanno perso lavoro o stanno in cassa integrazione. E poi una spia molto interessante di queste inchieste dicono che gli italiani non sono molto felici sulla presenza di Berlusconi alla guida del governo, ma non sono neanche molto contenti della politica del centro-sinistra, un'opposizione inefficace. Queste sono le conclusioni dell'inchiesta fatta da Ilvo Diamanti, il sociologo. L'altra inchiesta che ha attirato la mia attenzione sta sulla prima pagina del Corriere della Sera, che parla della una nuova espressione, la generazione né-né. Sono 700.000 inattivi convinti. Gli spagnoli la chiamano la generazione ni-ni, ni estudia ni trabaja. Sono i giovani che né studiano né lavorano, non pensano al futuro, non hanno progetti su cui riversare la propria ambizione. In Italia, nella fascia di età tra 15 e 19 anni, i ragazzi in queste condizioni sono 270.000, tra i 25 e i 35 1.900.000, almeno 700.000 sono gli inattivi convinti, tra virgolette, in questa inchiesta di Alessandra Mangiarotti, che parla di quelli che non cercano lavoro né sono interessate a cercarlo. Un nuovo fenomeno che io metterei in contraddizione con un altro fenomeno, una persona che è un fenomeno, che si chiama Daniel, che è un ragazzo, questo ragazzo Daniel Sedicchi, le mette in prima pagina il Sole 24 Ore, questo ragazzo che ha 27 anni, laureato, e da 10 mesi lavora negli Stati Uniti, c'è una bellissima mappa all'interno, per dimostrare che si può trovare lavoro. Ha un blog e ha girato tutto gli Stati Uniti, andando in più di 42 stati, è stato minatore, cuoco, operaio, agente immobiliare, pubblicitario, raccontando quotidianamente il suo paese con foto e parole. È un tipico americano, multietnico, perché papà afgano, mamma italo-irlandese, nato a San Francisco, è andato all'Università di Southern California. Gli piace l'atletica leggera e gli piace Michael Jackson. E invece, a dispetto del tasso di occupazione di 9,5%, In America non era mai stato alto così dall'agosto 1983, Siddiqui parla di quello che può fare una persona che ha voglia di trovare lavoro, perciò ha fatto l'archeologo a Fayetteville nell'Arkansas con un rimborso spese, però in altri posti, per esempio, è andato alla New Orleans e ha fatto il coordinatore di iniziative musicali per 1.800 dollari, come nel Kentucky ha fatto l'addestratore di cavalli. Una storia veramente affascinante che vi raccomando, prima pagina del Sole 24 Ore alla firma di Serena Danna. Ma è l'ora di tornare forse in questo bel paese, e quello che ci dà il tono, il tocco di quello che è successo ieri, forse meglio, è la stampa che parla delle nuove pensioni che questo documento DPEF ha promulgato. Dal 2015, come sapete, l'età salirà per tutti. E ci sarà un scudo fiscale sui capitali esportati illecitamente con un'aliquota del 5%, e le colf e le badanti si dovrà regolarizzarle e sarà più facile per quello che hanno un reddito minimo di 20.000 euro. E per attenzione, perché per le false regolarizzazioni nelle colf e delle colf e le baganti c'è il carcere da 1 a 6 anni, una cosa abbastanza senza precedenti. E dentro Stefano Lepri, che cura l'economia per la stampa, parla del dettaglio di questo documento, dove noi vediamo che la pressione fiscale oggi è al 43,4%, è vicino al massimo storico. Nel 2011 calerà al 42,8%. Magra soddisfazione, e che comunque si dice in inglese il diavolo sta nei dettagli. Le cifre di DPEF approvato ieri dice che solo nel 2013 l'Italia riuscirà a risalire al prodotto lordo che aveva nel 2007, e quella data a meno di metà del mezzo milione di disoccupati in più sarà riassorbito. Perciò un documento molto pessimista. E andiamo a quello che saranno le conseguenze di questo. Posso dire che sul Corriere della Sera Dario Di Vico parla di un autunno difficile, dice che vedremo esattamente la temperatura quando ci sarà la faccia a faccia oggi a Canciano tra il ministro dell'Economia Giulio Tremonte e il leader della CGIL Giuliano Epifani. Da lì si capirà qualcosa. E passiamo forse al secondo tema, che è la firma con dubbi di Napolitano sui clandestini e le ronde, e che cosa, che cosa ne dicono i commentatori. Certamente c'è un po' di divisione tra destra e sinistra. Alcuni giornali, come quelli della sinistra, lo interpretano proprio come uno schiaffo. Il riformista parla di schiaffo napolitano, invece Liberazione, più a sinistra, parla di un cortocircuito costituzionale. E invece il Manifesto parla della rinuncia del Colle. Sotto la firma di Andrea Fabrizi, dicendo Giorgio Napolitano poteva non firmare la legge sulla sicurezza, quella delle ronde e dei reati di clandestinità. Sponda anomala è il titolo. E segnalo ancora sul fronte politico un'intervista con Beppe Grillo, dice: non posso andare dove non mi voglio, però li sorprenderò mentre parla Bersani al congresso del PD, perciò Beppe Grillo non è finito. Finalmente vi voglio collegare con le notizie del traffico per dopo continuare la nostra carrellata sull'attualità italiana. Dennis Redmond vi dà appuntamento dopo il traffico. In primo piano. Ed eccoci qua al secondo blocco di informazione sulla stampa in Italia. In questa rassegna abbiamo dato lo stato dei luoghi, adesso vediamo le ricette per risolvere la situazione. Sul Corriere della Sera, pagina 10, c'è un editoriale di Alberto Quadrio Crucio che parla della posizione debole dell'Italia di fronte al duopolio di fatto tra il presidente francese Nicolas Sarkozy e il cancelliere tedesco Angela Merkel. Dice che nelle settimane scorse si erano diffuse le voci su Franco Frattini, quale responsabile europeo della politica estera e di sicurezza comune, PESC, e su Giulio Tremonti alla presidenza dell'Eurogruppo. Consideriamo, dice Quadro Curzio, la seconda, anche se entrambe le ipotesi sono importanti, in linea di principio praticabile. Comunque, dice Quadro Curzio, l'Italia deve scommettere su una posizione economica importante tra i commissari economici di spicco europeo, come a sua volta fu fatto con Mario Monti. Questi saranno veramente i giochi che saranno nei prossimi giorni e l'Italia ci deve essere. Un'altra visione abbastanza futuristica è data in prima pagina da Nouriel Roubini, l'economista che ha previsto la recessione in quale siamo entrati. Nouriel Roubini, americano, ma anche multietnico, e anche visitante dell'Italia, dice che si ritiene che gli Stati Uniti hanno, con il tasso di disoccupazione di 9,5, non hanno toccato il fondo e che si parla di 10% nel prossimo autunno. Allora, che fare? L'inasprimento della disoccupazione costringe i politici negli Stati Uniti, come altrove, a prendere in considerazione nuovi programmi di incentivi fiscali per sostenere una domanda fiacca e per creare più posti di lavoro. Ma nonostante la crescente pressione deflazionistica, sono previsti anche dei debiti pubblici insostenibili che finiranno per provocare un aumento dell'inflazione prevista e di conseguenza un nuovo rialzo dei tassi di interesse, i quali a loro volta rischiano di soffocare la ripresa e la domanda privata. Perciò, come sarà la ripresa? A V, a U, a L. Il proprio Rubini dice che potrebbe essere a W, cioè in duplice caduta libera. Su questo, dopo questo, torniamo a segnaliamo un altro argomento interessante. Era un articolo dal ministro Frattini, ministro degli Esteri, che scrive al Corriere della Sera e dice che la via d'uscita dell'Italia, l'exit strategy dell'Afghanistan e la pace. L'Italia deve rafforzare il governo mentre si prepara per le elezioni del 20 agosto, perché sono molto importanti. Si tratta, dice Frattini, delle prime elezioni che verranno gestite e amministrate direttamente dall'Afghanistan stesso con la comunità italiana. L'Italia inclusa è chiamata a garantire un contesto di sicurezza. Queste sono le ragioni. Non voglio finire questa rassegna sottolineando che è stata assassinata l'erede della Politkovskaja, tutti i giornali ne parlano o in prima pagina o con grande distacco all'interno. Si tratta di Natalia Estemirova, che dirigeva un'organizzazione umanitaria e denunciava gli abusi di potere in Cecenia. Anche ci sia stato l'indignazione del presidente Medvedev per il delitto, sembra che l'investigazione non sono andati molto avanti. Sul lato di politica estera voglio segnalare che cosa succede. Si era dimenticato di Hillary Clinton, invece è uscita dall'ombra. Il foglio sulla prima pagina parla del nuovo discorso molto sostanzioso della Hillary Clinton, che mostra i muscoli e che dà i 5 pilastri dello smart power americano. Smart power, potere intelligente, ricostruire le alleanze, trattare con gli avversari, promuovere lo sviluppo economico come parte di politica estera, far collaborare componenti militari e civili delle forze impegnate all'estero e far leva sulle risorse del potere americano. Questo è quello che vuole Hillary Clinton. E finalmente vi voglio dare, così a livello locale, vi voglio segnalare una piccola controversia tra i due gran vecchi della politica italiana. Si tratta di quello che chiama il giornale Il Moralista, il presidente emerito Oscar Luigi Scalfaro, che dice che Berlusconi deve andare in Parlamento. Invece c'è un'intervista a Francesco Cossiga dove ci sono le frecciate del presidente Cossiga, che parla dal presidente Clinton ai servizi di spionaggi esteri, che dice che in Italia non c'è nulla da spiare, sui voli di Stato dove la vicenda già arrivata non c'è stato alcun spreco, sul caso Grillo dove dice che il PD deve difendersi con autorevolezza altro che divieti. Perciò un testa a testa. Finalmente vi voglio segnalare pagina 17 della Stampa, un viaggio in Francia con l'Italia Cattivi, l'Italia Cattiva che sta chiudendo questa fabbrica dove gli operai minacciano di mettere il fuoco perché loro vogliono una liquidazione ghiotta. Vi segnalo questo articolo per vedere come e diversamente i sindacati e gli operai trattano una situazione in Italia e in Francia. Finalmente vi segnalo una cosa che tutti si sono dimenticati: domani aprono i campionati del mondo di nuoto a Roma, il Messaggero ce l'ha in prima pagina, l'Italia ridiventa internazionale con questo evento. Dennis Redmond vi saluta, vi dà appuntamento a domani mattina e vi auguro una buona giornata.